Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Di nuovo in diretta dagli studi di Via Zanardi per il Last Minute di oggi, mercoledì 5 luglio. Inizia esattamente questa sera alle ore 19 presso Orto, le Serre dei Giardini Margherita, l'inaugurazione di ZED, interventi di Mario Coccetti, amministratore delegato ZED Festival, con Lucia Carolina Del Rienzo, Enrico Colletti, Lorenzo Burlando, insomma la presentazione ufficiale. Dopodiché si inizierà con diverse realtà esperienziali, videodanza, proiezioni, di cui daremo anticipazione con Fabrizio Molducci per quanto riguarda questi aspetti, che sono veramente tanti. È arrivato alla quinta edizione, le sedi sono diverse, quelle che ho citato con Serre dei Giardini Margherita, ma anche il Mambo e il Cinema Odio. Sarà fino al 9 luglio e troveremo la possibilità, come ho detto, di esperienza performativa XR, proiezioni cinematografiche e tante realtà che accompagneranno questa ricchissima estate bolognese. Iniziamo la nostra conversazione con Fabrizio Molducci. L'intervista è stata curata da Clarissa Lapenna. Sentiamo appunto questa anticipazione per l'imminente apertura di ZED. ZED, il Festival Internazionale di Videodanza, diretto da Mario Coccetti e organizzato da Compagnia della Quarta. A tal proposito siamo qui in compagnia del responsabile della Compagnia della Quarta, Fabrizio Molducci. Buongiorno. Ciao. E cos'è ZED? E a che edizione siamo arrivati? ZED è un festival nuovo e anche avamposto in qualche modo per esplorare il futuro partendo dal presente e dal contemporaneo. Ci piace chiamarlo un festival ipercontemporaneo perché esplora una disciplina, la videodanza, che è cinema, dove il linguaggio narrativo è quello del corpo, della coreografia piuttosto che della parola, che ha una lunga storia ma che oggi, in questi anni, ormai ha una sua connotazione molto definita come disciplina artistica, pur sempre in evoluzione, ma una sua grammatica, uno degli autori che ci lavorano, che è riconosciuta a livello anche internazionale, a livello anche di mercato. E noi la esploriamo non solo attraverso il cinema e quindi film, cortometraggi e lungometraggi, ma una caratteristica di ZED, unica anche in Italia probabilmente, è il focus che dal 2020 abbiamo aperto sulle tecnologie immersive, quindi realtà aumentata, realtà virtuale, realtà estesa. ZED Festival è alla quinta edizione, quindi un piccolo compleanno che però cade in realtà nel pieno del secondo triennio di attività da un punto di vista progettuale, quindi che segna tappe importanti sia nel consolidare quello che è un percorso che stiamo facendo, sia nell'aprire nuovi scenari. E quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi di ZED sono quello di portare la danza a chiunque tramite la forza degli schermi, che ormai sono ovunque. Non è più lo schermo del cinema, non è più lo schermo della televisione, ma è lo schermo di un computer, di un telefono portatile, di un tablet, lo schermo di un visore di realtà virtuale. Questa è stata la riflessione che ci ha portato ad esplorare con grande successo questi mezzi, con grande successo perché quello che abbiamo trovato è stato un uso molto forte, molto consapevole, creativo della tecnologia. Realtà aumentata e realtà virtuale non erano effetti speciali, ma entravano in maniera potente nel processo creativo, quindi creando esperienze completamente nuove, adatte al mezzo, per offrire al pubblico una fruizione inedita, innovativa, a punti di vista inesplorati, e quindi qualcosa di totalmente nuovo anche dal punto di vista creativo. Quali saranno gli eventi? Prima mi premeva, se posso, sottolineare un paio di caratteristiche di ZED Festival che sono importanti. Certamente. Appunto, all'interno di questo processo di cui parlavo, ZED Festival ormai è un evento diffuso, e questa è una cosa molto importante per noi, che si divide in tre parti. Le anteprime, che sono una serie di eventi che abbiamo fatto nel mese di maggio e giugno, questa sera ci sarà l'ultima, le Serre dei Giardini Margherita. L'atto primo, dal 5 al 9 luglio, di cui parliamo oggi, che è quello dedicato maggiormente alle esperienze artistiche, è un atto secondo, inaugurato l'anno scorso e riproposto quest'anno, dedicato di più maggiormente alla divulgazione e alla formazione, quindi workshop, seminari, convegni, incontro con gli artisti e in realtà anche due nuove esperienze di realtà virtuale inedite, e questa è un'altra novità. Tornando all'atto primo, segnalerei sicuramente, per restare a quello che è la nostra matrice, quindi le proiezioni, la serata inaugurale del 5 luglio, in cui avremo Betrothenheit, un film molto importante di Jeff Tudor con le coreografie di Crystal Pite. Quindi anche quest'anno ospitiamo per l'inaugurazione un grosso nome della danza che si è dedicata alla danza in video, quindi dopo aver avuto Offa Schechter, Alain Platel, quest'anno Crystal Pite. In questa pienissima estate 2023 a Bologna città metropolitana per Zed Festival Internazionale di Videodanza quinta edizione, che ritroveremo anche per la rubrica in scena ovviamente al venerdì con la voce di Fabrizio Molducci di Zed per l'approfondimento dedicato, come avete sentito, alla proiezione di Bitter Fahrenheit di Crystal Pite, Jonathan Young e Jeff Tudor. L'approfondimento all'evento, alla proiezione, inserito nella presentazione stessa, sarà portato nella rubrica In Scena. Io ringrazio tantissimo Fabrizio Molducci per la disponibilità. Continueremo la conversazione dopo un po' di musica. Questa è una versione di Superstition, ecco, l'ho detto meglio, Stevie Wonder, l'autore, qui invece al piano, anzi alla tastiera, al piano Fender, Ahmad Jamal. A tra poco per concludere questo nostro Last Minute di oggi, mercoledì 5 luglio. Quest'anno il concorso di Zed è giunta alla terza edizione, ma quest'anno si allarga, si è fuso col concorso della danza in un minuto organizzato da Corpi di Torino, partner storico di Zed, e la selezione è doppia, quindi avremo 17 cortometraggi in gara, due serate di proiezione che saranno il 6 e l'8 luglio alle 21:30 al Cinema Odeon, che è l'altra grossa novità di quest'anno. Finalmente riusciamo a portare la videodanza al cinema. Questo è un grande obiettivo, oltre ai telefoni cellulari e visori, il cinema non ce lo dimentichiamo, e quest'anno finalmente, con questa collaborazione straordinaria col Circuito Cinema Bologna, che ringrazio insieme a tutti gli altri, arriviamo al cinema con la selezione ufficiale di Zed, con ben 7 premi, 4 premi in denaro, menzioni speciali, 3 giurie, insomma un grosso lavoro. L'8 luglio a seguire della proiezione ci sarà la premiazione. Okay. Invece per la parte delle esperienze in realtà aumentate virtuale segnaliamo un'esperienza in realtà aumentata molto bella che è Chaotic Body dell'inglese Alexander Whitley, un lavoro molto lungo che lui ha fatto sulle teorie del caos legato alle dinamiche del corpo, che è stato un lavoro che ha avuto molte fasi, è stato un lavoro laboratoriale, è stato un lavoro di spettacolo dal vivo, è stato un lavoro di danza in video completamente in computer grafica, e l'ultimo passo è questa esperienza di realtà aumentata che ospitiamo alle Serre, in Serra Sonora, alle Serre dei Giardini Margherita, dal 5 al 9 luglio, dalle 6 e mezza alle 11, ingresso gratuito e senza prenotazione, come tutto il festival. Okay. E quindi lo sottolineiamo. Volevo chiederti proprio questo, gli appuntamenti sono dal 5 al 9 luglio, il 5 abbiamo la serata inaugurale, che inizia alle 7 con il discorso, l'accoglienza, l'apertura lavori, ci sarà la possibilità di avere un piccolo assaggio delle esperienze di realtà aumentate virtuale che sono ospitate alle Serre, che sono 4, e la sera ci sarà Betroffenheit come film di inaugurazione. Dopo, dal 6 al 9, ci sarà il programma completo che è strutturato in più fasi e più luoghi. Abbiamo alle Serre dei Giardini Margherita, dalle 6 e mezza alle 11 di sera, l'esperienza in realtà aumentata e virtuale e una video installazione di Francesco Misceo, artista modenese. In più avremo al Mambo dalle 4 alle 7, compatibilmente con gli orari di apertura del museo, la selezione nuova di film a 360 gradi, sempre visibile attraverso visore di realtà virtuale, e nel salotto dell'Odeon dalle 6 e mezza fino alle 11 un'altra esperienza in realtà virtuale interattiva. Perfetto, ricordiamo che tutto è ingresso gratuito. Sì, mi sono dimenticato, tutte le sere le proiezioni, il 5 alle Serre, il 7 sempre alle Serre abbiamo un evento dedicato alla Black Culture in collaborazione col Festival Spore, e il 6 e l'8 sera all'Odeon la selezione. Ti seguiteci sui social eccetera per avere tutte le informazioni. Ti ringrazio e ti auguriamo un buon proseguimento e buona fortuna per questo grazie festival. A voi. Grazie Clarissa, l'intervista a Fabrizio Molducci per Zed, l'anticipazione è un last minute, quindi è questa sera alle ore 19 inaugurazione, l'approfondimento in corso d'opera sulla proiezione Betroffenheit, come ho già detto prima, sarà in scena per venerdì 7 luglio, in chiusura di questa prima settimana del settimo mese del 2023. Intanto anticipo anche la rubrica letteraria con queste sonorità. Le sonorità sono di Donald Byrd e sono molto anche ispaniche, in quanto troveremo due scrittrici in lingua spagnola per le pubblicazioni editoriali selezionate sui 103.1 libri a colazione. A tal proposito, 333-180-9494. Dopo la pubblicità si ritorna in diretta con il Voltiamo Pagina del mercoledì. A tra poco.